Benvenuti a tutti, puntata numero 4 di NBA Week su Radio Big World, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017. Iniziamo subito con il mashup della settimana, partiamo dal 7 dicembre. Considerate che oggi è il 14 dicembre, mercoledì, noi registriamo sempre di mercoledì e andiamo indietro di una settimana. Appunto, le domande che sorgono spontanee al 7 dicembre. Possono i New York Knicks insediare i Cleveland Cavaliers ad est? E possono i Los Angeles Clippers fare lo stesso con i Golden State Warriors ad ovest? Ad oggi la risposta è no e il 7 dicembre appunto ci sono due partite significative a riguardo. Al Madison Square Garden, New York Knicks seppelliti da LeBron James e Cleveland Cavaliers. King James mette il turbo alla fine del secondo quarto e in avvio del terzo la pratica è definitivamente chiusa per i Cleveland Cavs, che comunque per la verità conducono e gestiscono fin dall'inizio. Finisce 126-94 per i campioni in carica, 21 punti di Kevin Love, 25 con 6 rimbalzi e 7 assist di LeBron James, 28 per Kyrie Irving con 4 su 6 da 3, 20 rimbalzi per Tristan Thompson. Dall'altra parte Carmelo Anthony con solo 8 punti in 24 minuti, Kristaps Porzingis con un pessimo 5 su 15 dal campo, non c'è Derrick Rose, il migliore dei Knicks è Brandon Jennings con 16 punti. Staples Center, stesso copione, Golden State Warriors che dà una lezione di basket a Los Angeles Clippers, finisce 115-98, ma la partita è sempre controllata dagli Warriors, con parziali di vantaggio ogni volta in cui i Clippers provano a rialzare la testa. Tra i vice campioni ci sono 22 punti di Draymond Green con solo 2 errori dal campo, 19 con 6 assist e 7 recuperi per Stephen Curry, 24 per Klay Thompson, turno di riposo per Kevin Durant che chiude con 16 punti ma con un pessimo 5 su 17 dal campo. Nei Clippers si salva solo l'ex di turno Spades con 15 punti dalla panchina e anche il figlio del coach Rivers con 14 punti sempre partendo dalla panchina. Pessimo Blake Griffin con 5 su 20 dal campo. Golden State chiude con 32 assist di squadra contro i 15 dei Los Angeles Clippers e con 12 recuperi a 4 rispetto ai Los Angeles Clippers, 14 palle perse per i Clips. In queste statistiche sta il risultato della partita. Andiamo avanti, 8 dicembre, gara da ricordare, i Bulls che sorprendono i San Antonio Spurs di Greg Popovich. Vincono 95-91 con 20 punti di Dwayne Wade e una quasi tripla doppia di Rajon Rondo con 12 punti, 10 rimbalzi, 9 assist. Dalla parte degli Spurs ci sono 24 punti di Kawhi Leonard, ma un pessimo LaMarcus Aldridge con 5 su 15 dal campo. 9 dicembre, Cleveland Cavaliers che asfaltano i Miami Heat, 114-84. I Big 3 di Cleveland, 27 punti, 8 rimbalzi, 8 assist per LeBron James, 23 per Kyrie Irving, Love con 28 e 15 rimbalzi. Non serve altro per descrivere la partita. Contemporaneamente, Russell Westbrook contro James Harden all'ovest. Houston batte Oklahoma City Thunders per 102-99. Harden chiude con 21, 9 e 12. Russell Westbrook con 27, 10, 10, tripla doppia. Houston sempre più sorpresa di questa via di stagione, ma ne parleremo tra poco. 10 dicembre, altra partita importante, sempre campione in carica. Cleveland Cavaliers contro Charlotte Hornets, 116-105 per i Cavs. Kemba Walker tra gli Hornets, 24 punti. Bellinelli, il nostro Bellinelli, 15 punti, ma dall'altra parte abbiamo la prestazione della settimana. È quella di LeBron James, 44 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Partita dominata da LeBron, soprattutto da un punto di vista di dominio del gioco e controllo della squadra. I 10 assist, uno più spettacolare dell'altro, la visione di gioco di James è veramente esagerata a questo punto della sua carriera. Da non dimenticare la prestazione di Kevin Love, 22 punti, 16 punti anche per Imam Shumpert, 13 punti e 12 rimbalzi per il solito granitico Tristan Thompson. Da segnalare che LeBron in questa settimana ha frantumato un nuovo record dell'NBA, è infatti il primo giocatore nella storia a mettere in carriera 27.000 punti, 7.000 rimbalzi e 7.000 assist. E attenzione perché ha ancora 31 anni e con il fisico che si mantiene, chissà a che livelli potrà arrivare in futuro. Stessa notte c'è anche un Dwayne Wade che gioca con la sua ex squadra. I Bulls battono Miami Heat 105-100, malgrado l'ottima prova del duo Whiteside-Dragic, dalla parte ovviamente di Miami. Whiteside 28 rimbalzi, Dragic 21 e 11 assist. Dwayne Wade chiude però con 28 punti, Butler con 31. La partita va a Chicago che mantiene un record fino a questo momento sopra il 50% di vittorie e non è poco. Il sorpresone della settimana, più che il partitone della settimana, invece è quello tra Warriors e Grizzlies. Infatti i Warriors vengono piegati in casa dai sorprendenti Grizzlies. Si chiude 110-89. I Warriors chiudono il primo quarto incredibilmente 16-31 a favore della squadra di casa, appunto, dei Vancouver e dei Memphis Grizzlies. Da questo punto in poi i Golden State Warriors non si riprendono più. Grizzlies vanno in doppia cifra con 7 giocatori, tra i quali spiccano 19 punti di Tony Allen, 19 e 8 rimbalzi per Marc Gasol. Dall'altra parte, il dato statistico è quello delle 23 palle perse degli Warriors contro le sole 10 dei Memphis Grizzlies e di un 30-9 a vantaggio ovviamente dei Grizzlies riguardo ai punti sulle palle perse. Serata poco ispirata un po' per tutti gli Warriors, dove si salva un po' soltanto Kevin Durant, che tira con più del 50% dal campo con 21 punti in 30 minuti. 11 dicembre, due gare da segnalare. La prima, Boston Celtics contro Oklahoma City Thunders. Vincono i Thunders 99-96. Prova mostruosa di Westbrook, che però stranamente non va in tripla doppia, ma chiude con 37 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Altra partita da segnalare, anche perché l'abbiamo probabilmente vista tutti su Sky, quella tra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Timberwolves sempre piacevoli da vedere, stanno avanti a lungo per la partita, i Warriors semplicemente se la gestiscono in modo molto sapiente, aspettando il momento per piazzare il parziale decisivo che puntualmente arriva nel finale. Chiudono con 30 di Klay Thompson, 22 di Stephen Curry, 22 di un Kevin Durant che tira malissimo, 18 di Damon Green. Dall'altra parte, 25 punti per tutti e tre i gioielli di Minneapolis: Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns e Zach LaVine. Non basta però, partita a casa per i Golden State Warriors. Chiudiamo con la partita della notte del 13 dicembre. Si scontrano le due squadre apparentemente più in forma di questa settimana: Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers. Vincono i Cleveland Cavaliers 103-86. Lo fanno con un super Kevin Love da 29 punti e 13 rimbalzi. C'è anche il solito LeBron James che va una giornata in ufficio con tranquillità a 23 punti. 23 punti anche per un redivivo J.R. Smith. Siamo ad un quarto di regular season completato e quindi facciamo una piccola analisi. Quali sono le due sorprese di questo primo quarto di stagione? Le due sorprese stanno indubbiamente ad ovest. Una è sicuramente gli Houston Rockets. Squadra che io personalmente ho criticato in passato, mi fascio la testa per questo, sta mantenendo un record spettacolare, 18 vinte e 7 perse, e ad oggi sono la quarta forza ad ovest. L'impronta del nuovo coach Mike D'Antoni si vede chiaramente a livello di gioco. La squadra ha trovato un equilibrio migliore, soprattutto dopo la cessione di un Dwight Howard, che comunque ha pure lui beneficiato della cessione, visto che quest'anno Atlanta sembra ritornato a giocare in una maniera abbastanza meno svogliata rispetto alle ultime due stagioni. È stato rimpiazzato da Capela, un giocatore che tecnicamente, come ho detto precedentemente, da un punto di vista offensivo non è certo eccelso, ma che si sta dimostrando il complementare perfetto per l'esplosivo James Harden, che sta giocando una stagione ad oggi come potenziale MVP, e lo abbiamo già detto più volte. La quinta squadra ad ovest è l'altra sorpresa, a mio avviso, di questo primo quarto di regular season. Si tratta dei Memphis Grizzlies. Ok, hanno perso contro i Cleveland Cavs nella notte del 13 di dicembre, ma questo non vuol dire niente. Memphis sta giocando senza Conley e senza Chandler Parsons, che sono entrambi fuori per infortunio in questo momento. Malgrado questo, stanno macinando vittorie anche contro squadre importanti. Vedi la vittoria contro i Golden State Warriors, di cui abbiamo appena parlato. Gran bel gioco di squadra per loro. Il loro record al momento è 17 vinte e 9 perse, e sono appunto i quinti ad ovest, a mio avviso le due sorprese di questo avvio di stagione. Andiamo avanti velocemente e arriviamo alla rimembranza della settimana. Quest'oggi andiamo a Cleveland, ma ci andiamo un po' di anni fa. Si tratta dell'All-Star Game della stagione 96-97, quella che era la 50ª stagione della storia dell'NBA. L'NBA la festeggiò all'allora Gand Arena. I festeggiamenti per la NBA at 50 principalmente stavano nella notte della domenica, quella della partita delle stelle, l'evento clou del weekend dell'All-Star Game. Infatti, alla fine del primo tempo della sfida tra Est e Ovest, sfilarono nel campo della Gand Arena i 50 migliori giocatori di sempre al momento, eletti dall'NBA. Momento super toccante, partita super interessante. Glenn Rice, che batte tra l'altro, se non erro, un record della storia dell'All-Star Game, segnando più punti in un quarto e forse anche in una metà di partita. Michael Jordan chiude con una tripla doppia, ma non è questa la rimembranza che vorrei sottolineare. La rimembranza che vorrei sottolineare avviene il sabato, che solitamente è l'antipasto del weekend delle stelle, ma in questo caso è destinato a rimanere nella storia. Si tratta del Rookie Game, la partita degli esordienti dell'NBA, quella che solitamente è anche un evento abbastanza non importante rispetto a quella che è la partita della domenica e tutto l'All-Star Weekend. Rookie Game 97, per la prima volta di fronte a tutto il mondo, sotto i grandissimi riflettori, si sfidano Allen Iverson e Kobe Bryant, una sfida che si ripeterà in finale NBA qualche anno dopo. Quella è una classe di rookie molto molto molto interessante, ci sono giocatori che entrano in NBA come potenziali stelle del futuro, che in realtà non hanno avuto una grossissima carriera, giocatori che sono entrati dalla porta di servizio di quel draft, ma che in realtà hanno poi dimostrato di poter essere grandi o grandissimi, a seconda dei livelli. Facciamo alcuni esempi. In quella partita c'è Steve Nash, uno di quelli entrati dalla porta di servizio. È un comprimario anche nel rookie game, gioca pochissimo, ma come saprete nel futuro diventerà MVP stagionale e sarà ricordato come uno dei playmaker più geniali della storia della Lega. Altro entrato dalla porta di servizio, Derek Fisher, che non gioca il rookie game da comprimario, anzi piuttosto da protagonista, ma che in quel momento viene considerato un rookie di seconda fascia. In realtà si rivelerà uno dei giocatori più vincenti di sempre, uno dei più grandi clutch player della storia dei playoff NBA, attualmente coach, sicuramente giocatore importante. Non la stessa memoria per altri giocatori invece che in quel draft furono scelti a un livello più alto. Ad esempio Sharif Abdul-Rahim, giocatore capace di chiudere comunque con 18 punti di media nella sua carriera NBA, ma mai troppo decisivo. Kerry Kittles, ai tempi New Jersey Nets, un giocatore che chiuderà con 14 punti di media ma con una carriera troppo breve. Marcus Camby, seconda scelta assoluta di quell'anno, un ottimo specialista, un buon giocatore, un buon rimbalzista, un buon difensore, chiude la sua carriera con quasi 10 punti e 10 rimbalzi di media. Non è, oppure non sarà, il giocatore che ci si aspettava al momento. Stessa cosa per Antoine Walker, o meglio, Antoine Walker vivrà una carriera da protagonista in NBA, chiude con 17.5 di media la sua carriera. Non però come ci si poteva aspettare al tempo. Invece in quella classe rookie c'è un rookie che ha costruito una parte di storia della Lega. Si tratta di Walter Ray Allen. Walter Ray Allen in quel rookie game non certo protagonista, gioca piuttosto poco, si fa poco vedere, anche se era comunque considerato uno dei migliori di quella classe rookie. Effettivamente sarà ricordato come forse il miglior tiratore della storia dell'NBA. Si è tra l'altro ritirato quest'anno in una maniera piuttosto bizzarra, visto che era comunque 2 anni che non stava giocando. Comunque, Ray Allen non sarà protagonista di questa partita, ma lo sarà in futuro. I veri protagonisti di questa partita e del futuro, Allen Iverson e Kobe Bryant, dicevamo. Kobe Bryant in quel momento, come probabilmente saprete, arrivava nell'NBA direttamente dalla high school. Una cosa che al tempo non era così praticata, ma che era stata avviata in un certo senso da Kevin Garnett qualche anno prima. Loro due hanno poi creato un trend nel futuro. Kobe Bryant giocava poco nei Lakers, era ovviamente acerbo, si trova per la prima volta sotto i riflettori di tutto il mondo a poter giocare con i pari età, con quelli che eventualmente sono a suo pari livello, per quanto lui sia più giovane. Gioca una super partita, chiuderà con 31 punti, ma si vede fin dall'inizio che ha voglia di dimostrare il suo potenziale offensivo e quello che è capace di fare e che poi potrà essere capace di fare in futuro, e lo dimostrerà ampiamente. Lo ricordiamo, sapete benissimo, si è ritirato lo scorso anno come uno dei più grandi giocatori della Lega. Dall'altra parte invece c'è Allen Iverson. Sarà lui l'MVP di questa partita, vincerà lui la sfida ai punti con Kobe Bryant. Chiuderà questa partita con 19 punti e 9 assist. In realtà, se vi guardate gli highlights, capirete che Allen Iverson fin dall'inizio controlla la squadra dell'Est in quel rookie game. Lui è mente di ogni azione, solo 9 assist, ma tantissimi passaggi e tantissime idee che spesso non vengono recepite dai compagni, solo ed esclusivamente perché lui è avanti veramente di 2-3 marce rispetto agli altri, ed è visibilissimo. L'MVP appunto tocca a lui, solo probabilmente esclusivamente perché nella partita vince l'Est contro l'Ovest. Delusione per Kobe Bryant, che ha giusto il tempo di riposarsi, di farsi una mezza doccia probabilmente, vedere Steve Kerr che si vince la gara del tiro a 3 punti e poi ritorna sul parquet, va a partecipare alla gara delle schiacciate. Edizione piuttosto scialba, poco importante però perché Kobe Bryant se la porta a casa. Il sabato dell'All-Star Game è il suo, si tratta della prima vera volta sotto i riflettori di Kobe. Noi vi proporremo nel nostro blog medium.com/NBA Week gli highlights della sfida di questo rookie game tra Kobe e Allen I. Potrete rivederveli, potrete, anzi dovreste, se non l'avete mai fatto, andare a vedervi un po' su YouTube quello che successe durante quell'All-Star Weekend, perché comunque anche la partita delle stelle aveva da un certo punto di vista un appeal diverso rispetto a quello che è oggi. Oggi si tratta ancora più di allora di un esercizio di spettacolo forzato, molto spesso noioso, punteggi altissimi, difese inesistenti. Ai tempi ancora c'era qualche rivalità che portava la partita ad accendersi in alcuni momenti, e già si criticava il fatto che la partita delle stelle stesse diventando un happening fine a se stesso rispetto a quello che accadeva negli anni 80 nell'NBA, quando, o quantomeno fine anni 80, primi anni 90, quando c'erano proprio rivalità di conference, quando da una parte c'era Magic Johnson, dall'altra c'era Larry Bird, da una parte c'era Isaiah Thomas che faceva la guerra a Michael Jordan nella stessa squadra dell'Est. Le All-Star Game sono sempre state un momento piuttosto bizzarro, molto importante da un punto di vista di marketing, molto pompato dall'NBA stessa, molto spesso deludenti per chi lo osserva. Quindi andate però a rivedervi quell'edizione 97, perché se la partita è piacevole, quella della domenica, sicuramente Rookie Game sarà ricordato nella storia come la prima vera grande sfida tra Iverson e Kobe Bryant. Abbiamo provato leggermente e velocemente a raccontarvela. Benissimo, la puntata di questa settimana finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci sentiamo la settimana prossima con NBA Week, sempre su Radio Big World, sempre sul canale YouTube di Belli 13, se volete ovviamente. Grazie e a risentirci. Let's go!